Allora, onorevole Brunetta, sì. Noi abbiamo raccontato in questi mesi, non so se bene o male, ma anche tutte le variabili internazionali, chiamiamole così, che hanno contribuito a questo spread, non solo i movimenti che lei rilevava e sottolineava sincronizzati, diciamo, ma anche il fatto che a un certo momento, adesso non possiamo ripercorrere tutta la storia dal 2010 in poi, quando la Germania si irrigidisce sulla Grecia, ma insomma, a un certo momento si decide che l'Europa, e io sono assolutamente d'accordo con lei su quel punto, è il vaso di coccio, chiamiamola come vogliamo, è terreno fertile per attaccare il debito. Ci sono responsabilità tedesche, responsabilità italiane, responsabilità europee. Però una domanda volevo fargliela. Secondo lei, io ho capito tutta la quota di spread che deriva, diciamo, dall'attacco, speculazione, decisione dei fondi pensione giapponesi o canadesi a livello internazionale, ma non c'è stato anche una quota di spread politico per quello che riguarda l'Italia? E cioè, assolutamente sì, cioè, assolutamente. Nel senso, il ministro Tremonti, è inutile, io non voglio polemizzare, ma in quel tempo c'era una situazione di difficoltà con il silenzio del ministro Tremonti nel periodo giugno-settembre, cioè non abbiamo fornito, al di là della quota, diciamo, di zoccolo 2 dello spread, che quella non ci può fare niente nessuno, può farci solo qualcosa la BCE, Angela Merkel e il Consiglio europeo, ma non abbiamo anche noi dato una mano allo spread? Guardi, io varia da giorno in giorno, in quei giorni sono più pessimista, in quei giorni in cui sono più ottimista. Diciamo che un 70-80% lo spread è esogeno e deriva dai comportamenti di questi 10 grandi operatori. Un 20% è legato alla specificità del paese. Un esempio che risolve tutto: noi avevamo uno spread più basso della Spagna strutturalmente, esatto, di 50, 60, 70 punti. Ma a mio avviso anche correttamente, perché siamo un paese un po' più solido della Spagna. Erano migliori, cioè. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione dell'8-8,5%, la Spagna. Ma anche un export che la Spagna sogna. Certamente. I nostri fondamentali sono migliori, strutturalmente migliori. Bene, noi avevamo giustamente uno spread di 50, 60, 70 punti base fino a giugno, fino a maggio-giugno. Sì, fino a maggio. Poi inizia la fibrillazione e con la fibrillazione inizia anche, come dire, il nostro masochismo governativo da un lato, le cose che diceva lei condivide anche da me, cioè segnali non, cioè, l'assenza di Tremonti ha pesato. Ma certamente, guardi, non voglio essere, il governo dava risposte non sufficienti, mettiamolo così, o quando le dava in ritardo, e anche quando le dava in ritardo le dava spesso contraddittorie. E io faccio pesare però questa endogeneità, chiamiamola così, un 20%. Ma le dico di più, la Spagna a un certo punto in questa fase diventa più virtuosa di noi, pur nel peggioramento, nel senso che il suo spread relativo al nostro si abbassa. E va a elezioni, senso, però. E va ad elezioni, attenzione, questo è un punto cruciale. Prima dichiara di andare alle elezioni, e già questa dichiarazione fa migliorare il valore relativo, e cioè il peggioramento è minore rispetto a quello dell'Italia. Poi ci sono le elezioni, nel mentre ci sono le elezioni da noi c'è il cambio di governo. Uno potrebbe dire, bene, si riposiziona nuovamente, l'Italia diventa più virtuosa perché se n'è andato Berlusconi, arriva uno serio come Monti. Per niente. Perché? Cioè la Spagna rimane più virtuosa di noi pur negli spread più alti, semplicemente perché la Spagna ha davanti 5 anni, certo, mentre Monti per definizione ha o pochi mesi o 15 mesi. Ecco.